carrément aurait toujours vivant avec l'intention de le proposer pour le futur prix par un comité parlementaire. Stockholm recueille des documents prouvant que l'information des quatre sources affirme que les camps sont des plus inaccessibles, où ceux-ci déclarés absents ou morts sont relativement vivants et constamment dans la possibilité de sortir. Dans le monde, Budapest 1944, un train attendait dans la petite gare, sa destination, son chargement, la solution finale. Par devant l'officier, 200 000 étaient déjà passés au signal du début du voyage jusqu'au bout du monde. Un jeune homme s'arrête, explique, les documents prouvent que les destinés sont sous la protection de leur statut et qu'ils soient libérés. À son intervention, les autorités supérieures hésitantes facilitaient les rapports militaires permettant la saisie et portée d'assistance au nombre E dans le train. De la démonstration des passeports, la protection fut offerte passagère, que l'esprit préserve la solution pour sauver autant que possible dans le plus bref délai les liens imaginaires et familiaux alignés en mission pour dépasser l'Holocauste. Sa mission achevée, il partit faire face à ses libérateurs comme invité, comme détenu Moscou 1947, qui à l'époque déclarait avoir perdu connaissance, offrit plus tard une version différente. Le député du temps admit avoir eu conscience de l'existence d'une maison d'arrêt du cœur, un document de mort certifié, détruit par la majorité. Des assassins, l'histoire ne s'y arrêtant pas. Particulièrement ceux qui s'échappèrent furent entendus dire qu'ils s'étaient rencontrés pour clarifier le mystère créé par les gouvernements succédant à ces circonstances. 1982, l'effet du prix de l'honneur doublerait le sens intégral de la lutte de l'homme contre sa peine et le nombre. Ce geste servirait à toucher ceux qui furent incapables de comprendre qu'un homme prêt à risquer sa vie n'admit jamais qu'il fût arrêté. Qui sauve une âme de l'Alliance sauve la création. Qui sauve une âme de l'Alliance sauve la création. Qui sauve une âme de l'Alliance sauve la création. Qui sauve une âme de l'Alliance sauve la création. Qui sauve une âme de l'Alliance sauve la création. Qui sauve une âme de l'Alliance sauve la création. Qui sauve une âme de l'Alliance sauve la création. Qui sauve une âme de l'Alliance sauve la création. Qui sauve une âme de l'Alliance sauve la création. Qui sauve une âme de l'Alliance sauve la création. You know good? Fuck him. I said no good. I said bloody food. The white zone is for immediate loading and unloading of passengers only. No parking. Ethical Prophet con questo sì, profetico disco del 1982, forse appunto il tra parentesi ipotetico, beh, era un gioco ironico, ma anche forse un po' di consapevolezza rispetto a quelle che, seppur forse l'hanno più spinto tra le new wave, il techno pop, certo industrial, quello del 1982, ma anche quel senso forse che c'era già dentro Bernard Sanier, di forse smarrimento o perlomeno parziale smarrimento, occultamento del lavoro fatto appunto sia da lui in solo che insieme a Bear, per quanto riguarda appunto il progetto dei Political Prophet. Poi una disoccultazione che viene fatta in questi ultimi mesi con la ristampa del lavoro, con tanti rimandi che in questi ultimi anni sono legati evidentemente anche a ricerche come quelle di questo splendido gioiello dissepolto finalmente, Around the World with Hypothetical Prophet, che rimanda appunto a tanti mondi, ai tanti mondi che poi appunto coprono altrettanti mondi, ma appunto in una visione anche se vogliamo ipnotica della faccenda, quindi anche rimandi, effetti ombra che ci sono rispetto a musiche e anche appunto effetti anche quasi di riflessi che possono esserci appunto attraverso luci che poi appunto vengono oscurate, ma vengono appunto riflesse da altri pianeti ricercate, altre quindi sperimentazioni sonore, forse è un gioco insomma che è di fatto odierno, attuale, anche con Robert Icke, Aubrey Love e Ariel Calma, con appunto il grande francese. Questa sera non volutamente sono passate varie faccende francofone, anche Ariel Calma in effetti, o Ariel Calma forse per meglio dirlo, con appunto il suo lavoro storico, Osmose, disco della fine degli anni 70, disco eccezionale nel saper unire ambient, certe forme di minimalismo, certe divagazioni protoambientali che diventano poi altro, poi nel corso degli anni 80 sarà anche molto pacificato il suono di Calma, insomma, quasi un gioco di parole, e di fatto appunto solcherà anche la calma di certa New Age. Poi comunque riuscirà anche a smarcarsi da questo mercato un po' così, un po' fasullo, ma che come anch'esso sta succedendo insomma negli ultimi anni, non tanto appunto nella forma commerciale di mercato appunto, ma nella forma primigenia delle prime cassette, dei primi lavori, del primo laboratorio potremmo dire di molti costruttori di suoni ipnotici anche, che poi appunto così hanno calmato, ecco, ancora proseguendo questo un po' scemo, se vogliamo, anche gioco di parole con Ariel Calma, le loro inquietudini, quelle dei primi periodi, quella ricerca che appunto dopo proderà un'imbolsita senz'altro New Age, ma che appunto nei primi momenti e sicuramente con Osmose di Ariel Calma, disco di riferimento, ha delle forti inquietudini legate appunto alla ricerca, cioè questo senso che il disco Osmose riesce a passare, ecco, a distanza di molti anni, e appunto riprendendo questa sorta di riflesso che c'è appunto nel corso anche dei decenni, Robert Icke e Aubrey Love, che non è altro che uno del progetto di Likens, quindi uno dei progetti più interessanti per quanto riguarda musiche visionari che prendono tanto da certa ambient, tanto da certo drone psichedelico, ma anche un drone che si abbandona a questi momenti quasi di oblio che si hanno, e quindi sembra quasi che i percorsi si vengano a incontrare, le luci quasi vengano appunto a diventare un unico fascio di appunto un'unica emanazione sonora, un'emanazione appunto un fascio di luce appunto legato a questi riflessi appunto che nel corso degli anni appunto si vanno a incontrare, e che nel 2015 con lo splendido We Know Each Other Samoa, e vanno di fatto a solcare territori e lande molto, molto vicine a quelle che erano appunto il lavoro di Osmose originario di Ariel Calma, ma anche tutto il percorso, perché no, sintetizzato dentro queste belle annotazioni musicali che si sentono, e c'è anche questo senso poi decisamente armonico sia in Calma che in Aubrey Love, che rendono un disco questo Freak, tra l'altro volume Freak Ways, volume 12, altra perla di questo di questa ricerca appunto che è stata, come dire, ritrovata e tornata appunto dentro il nerbo di musicisti anche di aree appunto sperimentali, che magari hanno iniziato anche con una certa visione di noise, magari appunto poi spostandolo verso il kraut e poi trasformandolo appunto in queste divagazioni veramente molto, molto belle, molto, molto interessanti e senz'altro appunto con questa fascinazione anche, se vogliamo, verso l'abbandono, l'oblio, ma anche verso quello che può essere appunto il rilascio verso il futuro, un futuro anche prossimo di questi suoni appunto che provengono da, in questo caso, da Aubrey Love e Ariel Calma, che appunto ci andiamo ad ascoltare tutto d'un fiato, come a dire, dentro queste possibilità date da eccezionalità appunto sonore come quella appunto loro. Thank you. Un bel viaggio dentro uno dei suoni più affascinanti di sempre, quello legato appunto a questi trip, si potrebbe dire proprio così, perché provengono forse proprio da quella voglia di sperimentare che fu insomma delle generazioni psichedeliche, e con quella commistione incredibile legata alle avanguardie e a faccende che ovviamente andavano a incrociarsi in maniera anche piuttosto geniale. Ariel Kalma viene da quelle esperienze, e per quanto riguarda Robert Icky Obrilov con i suoi Lickens, viene da quel, potremmo definirlo recupero, ma non è soltanto questo, è riprendere, come molto spesso sottolineiamo da queste parti, un'attitudine comunque appunto sperimentale, e nel vorrei ricercare, quindi veramente la ricerca è sotto tutti gli aspetti, sia sonori ma ovviamente anche di si potrebbe dire anche quasi una sorta di viaggio appunto antropologico dentro le musiche. Avete sentito nella prima parte del disco We Know Each Other Somehow, come quasi delle forme quasi tribali musicali diventino poi delle sorte anche di trance che possono rimandare anche a certe musiche elettroniche, come appunto il sax di Ariel Kalma, da un sax armonico poi diventi una sorta anche poi di allungamento dell'armonia in una sorta di drone molto estatico, come abbiamo sentito appunto poi dopo nella seconda traccia tratta da questo veramente disco notevole appunto di Obrilov insieme a Kalma, e poi appunto tutta una allure musicale che si respira in questo disco, che è tanto psichedelica quanto legata appunto a questa incessante voglia appunto di sperimentare e di ricercare appunto attraverso la musica, ma la musica come poi contesto sociale, come quindi linguaggio veramente universale. In questo senso c'è questa apertura dei due artisti, senz'altro per Kalma, ma altrettanto per Obrilov. Beh, è un'attitudine che senz'altro si può riscontrare in oscure, veramente occultate in questo senso, formazioni che poi appunto anche nel ritrovamento poi di questi ultimi anni non perdono il loro valore misterioso, anzi viene forse amplificato proprio dalla riscoperta, quasi una sorta di paradosso. Questo progetto proviene appunto da uno dei 68 più oscuri, le psichedelie che andavano a cercare appunto un suono quasi primordiale, un viaggio anche antropologico, se vogliamo, oltre nelle dimensioni appunto allucinate di questo Dreaming the Magic of Your Maya, ma anche appunto un viaggio che è universale appunto. In questo senso c'è anche in questo progetto Prince of Flower and Murray proprio questo valore appunto aperto dato dall'esperienza appunto e dalla sperimentazione che questa esperienza vitale può dare, quindi dentro i solchi di questo disco dissepolto, come stiamo usando questa sera, dalla Wawa Record, benemerita anch'essa per appunto ristampe assolutamente eccezionali di dischi che tra l'altro hanno dei prezzi battuti veramente allucinanti nelle copie originali. Beh, allora tanto vale appunto chiudere questo 451 occultazioni proprio con Princess Flower and Murray, appunto rimandandovi a giovedì prossimo e saluti appunto della stagione insieme a Eliseo Scarpa dentro 451 intersezioni. Per quanto riguarda frammenti sonori e futuri rumori, chiudiamo qua la faccenda, ma insomma la riapriremo senz'altro tra qualche mese, appunto al ritorno dopo le bollenti estati, saranno bollenti. Vabbè, vi rimando appunto giovedì prossimo. Nel frattempo chiudiamo con Princess Flower, come dicevo prima, e Murray.